Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre il nostro sommario. Andiamo! Le carotidi, per funzionare bene, devono essere libere. Cornea, oculisti a convegno. Tutte le novità. In piscina, con l'esperto. Pulite e lisce. Pervie, così devono essere le nostre carotidi per fare il loro lavoro, portare sangue ossigenato al collo e al cervello. Un lavoro importantissimo, determinante, molto simile a quello che svolgono le coronarie per il cuore. Tutti sappiamo che se le coronarie si ostruiscono, il cuore ne soffre. La stessa cosa capita al cervello se le carotidi si restringono e si ammalano. Quindi, amici miei, teniamole da conto. Anche noi possiamo, come sempre, fare la nostra parte. Ci sono dei fattori di rischio che dobbiamo conoscere e tenere sotto controllo. Ne parleremo nel corso di questa puntata, che ci darà però anche l'occasione per fare il punto sui trattamenti farmacologici, chirurgici ed endoscopici oggi a disposizione per curare le carotidi ammalate. Saluto la dottoressa Lidia Rotavender, che è presidente di ALTA, Associazione Lotta alla Trombosi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Ed è tornata a trovarci, mentre in studio qua con me ho il professor Attilio Dero. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Prendo fiato per raccontare un po' la sua qualifica, che è molto lunga, ma gliela voglio dire tutta ad un fiato una volta sola. È direttore della cattedra di chirurgia vascolare della scuola di specialità di chirurgia vascolare all'Università di Pavia presso l'ospedale San Matteo. Detto tutto, buongiorno anche a lei. 824 0024 per intervenire, 349 238 6666. Oggi naturalmente, come sempre, parleremo di fattori di rischio, di prevenzione e anche, per chi ne avesse bisogno, di terapie e di aggiornamenti. Dottoressa, noi abbiamo aperto dicendo che sono importanti e io ho anche azzardato un paragone, però presentiamoli per bene: dove sono situate, cosa servono, in definitiva perché sono così importanti. Allora, e sono due. Intanto il paragone è perfetto, perché è vero che le carotidi sono arterie così come le coronarie sono arterie. La differenza è che le coronarie sono arterie molto piccole che stanno dentro un muscolo che si muove, che sarebbe il cuore, mentre le carotidi sono in accompagnamento ai muscoli del collo, decorrono proprio lungo il collo e devono portare sangue al cervello. Sono due, nel senso che sono la destra e la sinistra, ma poi si diramano come tutte le arterie, come i rami di un albero, in tanti rami più piccoli. Sono fondamentali ed è fondamentale che rimangano pulite e pervie, come le ha definite lei, ed è corretto, perché il sangue che arriva al cervello passa da lì, e se le pareti delle carotidi si incrostano perché nel tempo invecchiano, come è normale che sia, c'è un processo degenerativo di invecchiamento che può essere solo rallentato ma non può essere eliminato, queste carotidi si infiammano, la parete interna della carotide si inspessisce, si depositano dei grassi che sono il colesterolo e i trigliceridi, l'infiammazione provoca l'attivazione della coagulazione del sangue, se si formano dei piccoli depositi o grandi di trombosi, questi frammenti possono partire e andare al cervello. Il cervello è una grande centrale elettrica, immaginiamola come un enorme quadro elettrico con tanti bottoni, ogni bottone comanda una funzione, se parte un microembolo che arriva al cervello spegne un bottone, il paziente perde una funzione e quindi se ne accorge. Se invece va in uno di quei bottoni che non sono funzionanti, il paziente non se ne accorge perché non perde una funzione, ma forse nel tempo il suo cervello dimostrerà a lungo andare di essere malato. Noi ne parleremo anche di TIA, un attacco ischemico transitorio. 824 0024. Professore, si invecchia, no? E invecchia tutto il nostro organismo, carotidi comprese, però lo stile di vita può giocare un ruolo molto importante e avere anche delle ripercussioni sulle carotidi. Io vorrei individuare quelli che sono considerati fattori di rischio per capire proprio quanti rischi noi possiamo correre, però io, professore, vorrei evitare un elenco, proprio perché noi l'elenco lo conosciamo talmente bene che quando ce lo propongono pensiamo ad altro. Allora, cerchiamo un po' di puntualizzare bene le cose. Noi a chi dobbiamo suonare un campanello d'allarme per le carotidi? carotidi? A chi dobbiamo tirare la giacca, insomma? Ma vorrei intanto dire che ha ragione la dottoressa Lidia Rota quando dice che l'arteriosclerosi è un processo di invecchiamento delle arterie e quindi ha un suo corso naturale, che può essere accelerato o ritardato a seconda delle di come abitudini ci comportiamo noi e a seconda anche dei supporti farmacologici che vengono adottati per frenarne l'evoluzione. Quindi è chiaro che quelli che sono gli ipertesi, i dislipidemici, cioè quelli che hanno i grassi nel sangue che sono mal distribuiti o sono eccessivamente rappresentati, chi ha superato i 50 anni, chi fuma soprattutto, deve stare molto attento e eventualmente controllarsi dopo una certa età, cioè dopo i 50 anni in su. Oggi l'arteriosclerosi si manifesta in maniera importante anche al di sopra i 50 anni. Dottoressa Rotavendere, ipertesi, a partire da che valore? Si può fare un distinguo o basta l'ipertensione a metterci a rischio? Dunque, intanto dobbiamo specificare che quando parliamo di ipertensione vuol dire avere dei livelli persistentemente elevati della pressione o della massima o della minima e non la puntata di pressione alta perché siamo emozionati o perché ci siamo affannati o abbiamo fatto una corsa. Quindi la prima cosa è, quando si misura la pressione, misurarla bene, stando seduti 5 minuti tranquilli, misurarla al braccio destro e al braccio sinistro, possibilmente misurarla 2 o 3 volte a destra e 2 o 3 volte a sinistra per vedere di avere qual è il valore vero e fare una media. Chi ha la pressione? Dunque, la pressione ideale può variare rispetto all'età. Una volta si diceva che andava bene 100 più gli anni, non è vero. Perché se no, se uno arriva a 100 anni ha la pressione 200 e invece sono problemi seri. No, questa la dobbiamo eliminare. La pressione ideale oggi, secondo le linee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve essere inferiore a 135 la massima, inferiore a 85 la minima. Le donne tendono ad avere di solito in giovane età una pressione molto più bassa di questi valori, ma va bene così. Gli uomini tendono ad avere la pressione più alta. La pressione va misurata periodicamente anche in chi sta bene, ma non tutti i giorni, va misurata una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno. Quindi pressione, e il professor Odero ha detto naturalmente a chi fuma, ma fuma tanto, fuma poco, fuma ogni tanto, c'è un limite di sigaretta al giorno? Noi sappiamo che il fumo fa male, non bisogna fumare, ma quando diciamo chi fuma abbiamo anche un criterio per dire se fuma poco rischia di meno, se fuma tanto sono gli anni di fumo che ammalano le nostre carotidi, più che la quantità di sigaretta. C'è un po' questa tendenza ad identificare un nemico da battere in modo che tutta l'attenzione si focalizzi su quel nemico e il resto viene trascurato. Allora, il fumo è uno dei nemici che compongono la squadra dei complici che fa i danni al nostro sistema idraulico, del quale le carotidi fanno parte. Il fumo certamente è negativo perché comporta 2 o 3 effetti che sono negativi. Chiude le arterie, nel senso che le vasocostringe, perché la nicotina è un vasocostrittore. In più provoca la formazione di sostanze infiammatorie sulle pareti interne delle arterie, che poi scatenano l'attivazione della coagulazione. In più contiene delle sostanze tossiche derivate dalla combustione della carta e del tabacco, che sono quelle, il catrame. Insomma, ci ha convinto. No, lo dobbiamo dire. Poi, quante sono le sigarette che uno può fumare? Allora, se uno fuma 10 sigarette al giorno, 15 sigarette al giorno, fuma da tabagista, perché, ed è paragonabile, diciamo, all'alcolista, quello che non può fare a meno dell'alcol. Se una persona fuma 2 o 3 sigarette al giorno e non va in ansia quando gli manca il pacchetto delle sigarette o quando non trova l'accendino nella borsa e non esce di notte a mezzanotte per comprare le sigarette dal tabaccaio perché altrimenti ha le ultime 2 e non sa come fare, ecco, questi sono, questa persona probabilmente non è un tabagista, è uno che ogni tanto fuma una sigaretta. Quindi bisogna avere buon senso e non lanciare messaggi né sciocchi né eccessivamente intimidatori. Il fumo certamente non fa bene, non ha un effetto protettivo sulle arterie. Quanto si fuma ha un impatto sulla probabilità di peggiorare lo stato delle nostre arterie. E non solo. Da che famiglia veniamo è importante, perché oltre al fumo, la pressione alta, il diabete, il colesterolo, ci sono altri complici, e uno è la genetica. Noi siamo fatti della pasta di cui ci hanno dotato i nostri allora, genitori. Allora, dottoressa Rotavendere, chiediamo anche agli ascoltatori se nella vostra famiglia, professor Odero, giusto, avete avuto dei casi, dei familiari che si sono hanno avuto un problema alle carotidi, oppure hanno avuto un TIA, un attacco, un ictus. Chiamateci 824 0024, i messaggi 349 238 6666. A tra poco. il microscopio. E nell'attesa delle vostre telefonate facciamo un salto a Venezia, perché oggi si apre il primo congresso della neonata Società Europea della Cornea, che riunisce i più importanti esperti nazionali ed internazionali che si occupano delle patologie corneali. Un appuntamento ricco di novità molto interessanti che ci facciamo illustrare dal dottor Paolo Vinciguerra, responsabile oculistico all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dottor Vinciguerra, bentornato. Buongiorno dottoressa. Allora dottore, che emozione, primo congresso di una società che nasce proprio ora. È stata una sfida, perché si tratta di riuscire a trovare il consenso di tutti gli esperti europei, di portarli in Italia in un momento economicamente difficile, quindi tante cose, però abbiamo superato ogni più rosea aspettativa di iscritti. Insomma, ce l'avete fatta. E allora partiamo con le novità, sono davvero tante. Io inizierei dai trapianti, che diventano, dottore, sempre più selettivi. Sempre più selettivi, perché se noi trapiantiamo l'intera cornea il rischio di rigetto è maggiore. Ci sono poi più complicazioni anche legate alla chirurgia, ci si sposta sempre più a sostituire la parte malata, a volte l'endotelio, le cellule staminali quando mancano, lo stroma in altre parti, solo aggiunta di parti che possono promuovere la riparazione come la membrana amniotica. Quindi questo è sicuramente un passo avanti, si sostituisce solo quello che è necessario. Con tecniche sempre più sofisticate, perché voi pensate che o per le cellule staminali o per lo strato interno dell'endotelio si tratta di innestare fogli cellulari così delicati che non li possiamo neanche toccare, ma li maneggiamo con aria o con sostanze viscose. Al convegno, dottore, parlerete naturalmente anche di cheratocono. La novità nel trattamento di questa patologia è rappresentata da una combinazione cross-linking e laser ad eccimeri. Ci spiega perché questo è un passo avanti nella terapia, nella cura di questa patologia? Poiché quando noi abbiamo il cheratocono possiamo agire con il cross-linking nel bloccarne l'evoluzione, ma non possiamo riportare l'orologio indietro, la cornea rimane deformata così com'è. Viceversa, con laser ad eccimeri noi possiamo rimodellare la cornea, ma se lo facessimo senza il cross-linking tornerebbe a deformarsi come era capitato negli anni precedenti. Combinando le due tecniche prendiamo il meglio dei due mondi, rimodelliamo la cornea e poi la congeliamo nella forma che gli abbiamo assegnato, che consente anche una vista migliore. Quindi il laser rimodella la cornea malata e il cross-linking la stabilizza. Esatto. Senta dottore, ci sono anche buone notizie per chi sta pensando ad un intervento di chirurgia refrattiva. Ancora una volta il laser, che è protagonista assoluto di questo convegno, torna a darci buone notizie. Il laser farà cose sempre più sofisticate, legandosi a degli strumenti ultra sofisticati di diagnostica, poi potrà addirittura scolpire la lente nello spessore della cornea, e questo piccolo lenticolo può essere sfilato con degli strumenti idonei da una microincisione, quindi ancora meno trauma, più rapido recupero funzionale, ancora migliori risultati. Dottor Vinciguerra, io la ringrazio, la lascio al suo convegno, in bocca al lupo. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci delle nostre carotidi. Abbiamo in linea con noi Maria Luisa, ci chiama da Monza. Mi hanno messo anche Brianza, così se non lo sapessi. Maria Luisa, buongiorno, da Monza a Brianza. Buongiorno. C'è un'altra Monza? Sì, no, non Monza, penso. Sì. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì. Io più di un anno fa ho avuto un episodio al braccio sinistro che per un 5-6 istante, cioè non sono riuscita a muoverlo, cioè il mio cervello lo comandava ma il mio braccio non si muoveva. E, ho fatto l'ecografia alle carotide, però è risultato tutto normale. E allora cioè io ho chiesto ma come mai allora questo episodio e non mi hanno saputo dare una risposta. Una risposta. Io volevo chiedere una cosa. In quel periodo l'unica cosa che il dottore mi ha detto, avevo molto alto sia i trigliceridi sia il colesterolo, sono quasi sui 300. Sì. Adesso però, sono a posto. Sì, però. Adesso sono Brava, a posto. Maria può Luisa. Essere che è stato quel sangue così denso, come mi hanno spiegato, che in quel momento ha fatto questa reazione. Ma grazie Maria Luisa. Professor Odero, Maria Luisa ha fatto l'esame giusto, che così chiediamo bene, e poi ed è corretto dopo questi segnali, quindi come una paralisi, no? Anche se momentanea, brevissima, il braccio, andare a vedere che cosa succede a livello delle arterie? Da come racconta la signora, probabilmente si tratta di un TIA molto passeggero, un TIA molto, molto fugace, che ha dato i segni clinici che ha dato. Ha fatto correttamente le ecodopre delle carotidi, forse sarebbe stato anche utile fare o una risonanza o una TAC del cervello per vedere se ci fossero delle lesioni intraparenchimali, cioè dentro nel cervello stesso. Deve seguire un particolare attenzione e precauzione, sicuramente tenere sotto controllo i fattori di rischio. Sicuramente, poi forse non so quanti anni abbia la signora, ma sicuramente un trattamento antiaggregante a lungo termine credo che sarebbe utile. Perché quando le carotidi iniziano ad ammalarsi ci sono tante alternative. Naturalmente noi abbiamo insieme al professor Odero scoperto quali sono gli esami per valutare la loro situazione. Esami che si fanno, dottoressa Rotavender, solo quando c'è un segnale come quello che ci ha raccontato Maria Luisa, oppure un TIA, oppure lei consiglia se avete superato i 50 anni, se avete familiarità, fumatori, siete un po' con la pressione. Se avete la coscienza sporca, ecco, vuol dire. Sì. Volevo dire tutte queste cose senza. Oggi voglio essere gentile. Sì. No, dunque io non sono mai incline a fare tanti esami, però trovo che la prima cosa da fare è analizzare il problema. La signora ha avuto un sintomo, il braccio non ha avuto forza senza avere dolore, quindi certamente è stata una questione centrale. In quel cervello qualcosa è successo, qualcosa è arrivato, è stato talmente fugace che si è risolto da solo. Sono d'accordo di fare una risonanza per vedere che cosa c'è a livello cerebrale. Una delle ragioni potrebbe anche essere stata il cuore, perché qualche volta non solo le carotidi ma anche il cuore può fare un movimento scomposto. Certo. Formare dei microtrombi che poi partono. C'è un'altra cosa che non va dimenticata, io non so quanti anni abbia la signora, i TIA sono dei campanelli d'allarme e non vanno mai sottovalutati, perché la maggior parte dei pazienti che sviluppano un ictus cerebrale prima ha avuto dei TIA subentranti che non sono stati valutati nel modo giusto. Voglio sottolineare, io ho affrontato proprio il problema carotidi perché volevo e mi sento, anche se so che trattare magari temi di questo tipo, no, fa spegnere la radio ad alcuni, ecco, io per mia responsabilità devo e voglio informare i miei ascoltatori su quelli che sono i campanelli d'allarme che non vanno assolutamente trascurati. Il TIA, proprio perché rientra e sembra temporaneo e passeggero, è sicuramente uno di questi. Ed ecco che siamo tornati insieme. Darei la parola a Renzo, che ci sta aspettando da un po', ci chiama da Modena all'824-0024. Buongiorno Renzo, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie di darmi la possibilità di fare la mia domanda. Che io so che parlate di familiarità. Io ho avuto mia madre che è morta a 50 anni con ictus e mio padre 60 anni con infarto. Io attualmente ho 60 anni. Sì. E molti medici che io ho avuto l'onore di visitare, quindi fanno visitare, molti gli danno importanza, altri no. Allora, vediamo, qua ne abbiamo due esperti. Dottoressa Rotavender, sinteticamente, perché passiamo poi la parola al professor Odero, abbiamo anche gli altri ascoltatori. Allora, conta o non conta, secondo lei? No, conta, senza dubbio conta, anche se non è l'unico elemento determinante. I codici di invecchiamento sono scritti nella nostra genetica, quindi se il nostro padre o la nostra madre hanno avuto un evento vascolare in un'età relativamente giovane, diciamo che quel paziente deve stare particolarmente allerta sui fattori di rischio e forse è quello che deve andare a fare un eco del cuore e un eco delle carotidi prima di altri. Professor Odero, lei è d'accordo con la dottoressa Rotavender? Assolutamente sì, direi che se vogliamo fare un paragone, un atteggiamento del genere può equivalere alla colonscopia quando si supera una certa età, cioè 50-55 anni, che pur in assenza di sintomi conviene sempre tenere sotto controllo certi organi. Con la differenza, professore, diciamo la verità, che la colonscopia è un esame un po' antipatichino. Sicuramente. Mentre l'ecodoppler assolutamente con l'ecodoppler le carotidi si vedono benissimo senza nessun dolore, senza nessuna invasività. Allora, io volevo rispondere ai tanti ascoltatori che mi dicono: ma le carotidi, se soffrono, se fanno, se sono un po' ostruite, danno dei segni, ad esempio mettendo la mano sul collo si sente che il cuore si batte qui, vuol dire che la carotide fa fatica o no? Questo mi chiedono, professor Odero. Dolore niente. Assolutamente niente. Se sentiamo se il cuore si nella... può sentire un piccolo fremito sotto le dita, può essere segno di una turbolenza dovuta alla placca, ma questo è più un segno che noi medici oddio. Ricerchiamo. Siamo con... noi, ecco, lei sta vedendo, io mi sono qua con le mani sul collo, Carmelo anche, la Laura, che loro sono giovani, non hanno le carotidi che sono delle autostrade liscissime. Non è un loro problema. Comunque sono no. tutte segni che noi medici ricerchiamo col fonendoscopio, per esempio, sentiamo i cosiddetti soffi, che sono segni della turbolenza a livello di carotidi, e quello deve mettere in allarme e soprattutto consigliare un esame ecografico. Perché la turbolenza non ci piace, vero dottoressa Rotavender? No, non ci piace la turbolenza perché il flusso nelle carotidi deve essere liscio. Sì. Quando la parete interna della carotide è gonfia, ostruita in parte, il flusso non è più laminare e liscio, diventa turbolento. La turbolenza determina trombosi. Vorrei dire una cosa molto importante prima di dimenticarla. È vero che tutte le malattie delle arterie sono più frequenti dopo i 50 anni, ma oggi è anche vero che ci sono alcune situazioni nelle quali ci possono essere delle dissecazioni delle carotidi nei giovani. E questo può avvenire, e mi dispiace doverlo dire, ma è così, in quei giovani che fanno delle attività sportive estreme, per esempio il bungee jumping. Ci sono delle stirature che vengono provocate proprio da trazioni molto violente, sì. I vasi del collo possono subire la stessa stiratura e la parte interna del vaso si scolla. Se si scolla, questo attiva una serie di meccanismi che può portare a trombosi di carotide. Non ho detto che tutti quelli che fanno il bungee jumping debbano avere questo, ma ci possono essere delle persone particolarmente fragili o delicate che forse, soprattutto se manifestano dei sintomi dopo delle esperienze come queste. Idem per il colpo di frusta in automobile, ma deve essere insomma abbastanza molto violento, forte. Ecco, non un piccolo impatto, però è importante. Assolutamente. E le donne lo stesso. Ecco, diciamo, io ho accennato alle, se siete in menopausa restate. Esatto. Perché, dottoressa Rotavender? Perché devono restare anche le donne che non sono in menopausa. E anche gli uomini, i ragazzi. Però a proposito delle carotidi, secondo noi vogliamo dare sempre un occhio secondo i canoni della medicina di genere. Sappiamo che noi donne siamo protette fino al momento della menopausa e poi comunque i rischi si pareggiano con gli uomini, esatto. col sesso maschile dopo. Esatto. Però, dottoressa Rotavender, è venuto fuori uno studio per le donne che prendono ormoni sintetici. Sì, perché si è posto un grande problema. Siccome è stato dimostrato, intanto la menopausa può essere una fase della vita che dà dei sintomi molto importanti, non necessariamente, non sempre e non in tutte, ma qualche volta sì, e questi sintomi hanno un impatto sulla qualità della vita, sì. Disturbi della sfera sessuale, irritabilità, insonnia, sudorazione profusa, non è una buona compagnia. Per questa ragione era stato inventato un metodo che era la somministrazione di ormoni oltre la menopausa, che erano gli stessi ormoni che si avevano in età fertile. Questo comporta un miglioramento dei sintomi. Però... e sembrava di aver trovato un l'uovo di Colombo. Nel tempo si è pensato che questi ormoni potessero anche continuare a proteggere la donna dalle malattie cardiovascolari. Purtroppo, andando avanti, si è visto che questo non è vero. Ma se le donne hanno bisogno degli ormoni perché hanno dei sintomi importanti, allora non possono prenderli per niente, debbono tenersi i sintomi o hanno una soluzione. Uno studio ha dimostrato recentemente che alcune dunque gli ormoni in generale comunque hanno un impatto sulla densità del sangue in termini di coagulazione, perché aumentano la coagulazione del sangue. Alcuni se li possono permettere, alcuni e altri no. Ma gli ormoni che vengono dati per via transdermica, cioè con il gel spalmato sul braccio oppure col cerotto, danno meno problemi alla coagulazione? Ecco, questo ancora non lo sappiamo, pensiamo di sì. Questo studio sembra dimostrare che le donne che prendono gli ormoni per bocca in menopausa hanno un rischio duplicato di avere un ictus cerebrale rispetto alle donne che non li prendono. Le donne che li prendono per via transdermica hanno un rischio più basso rispetto a quelle che li prendono per bocca. Ecco, e come sempre noi vi aggiorneremo nel cammin facendo. Intanto volevo chiedere al professor Odero, prima di di dare la parola a Massimo dalla provincia di Caserta. Se faccio l'eco Doppler, vuoi per un controllo, vuoi perché mi è venuto un segnale, un piccolo TIA, e quindi scopro che le mie carotidi iniziano ad ostruirsi, che cosa si fa? Si passa subito la mano, si va subito dal chirurgo vascolare o dal radiologo interventista, o si può arrivare prima a pensare alla somministrazione di una terapia farmacologica? Credo che la seconda ipotesi sia la più corretta, nel senso sì. E mi fa anche più piacere, no? Che, ma insomma. No, nel senso che se non ci sono stati sintomi, cioè se la paziente è asintomatica, assolutamente non è il caso di procedere, a meno che la placca che occasionalmente è stata individuata non superi il 70% di restringimento. Sì. Altrimenti un buon controllo nel tempo senza nulla fare, ma con terapia farmacologica antiaggregante, questo sì. Questa terapia farmacologica antiaggregante è una terapia che si prende a vita, come le pastigliette per la pressione, non sì. È che uno dice lo prende un po', il sangue si scioglie e via, no? Non è così. Invece poi ci sono dei casi in cui il professore le tocca intervenire. Sicuramente. Ecco. Sì, parliamo di interventi, ogni intervento rappresenta dei rischi, ogni intervento soprattutto per chi è sotto, no? Perché sì. per il chirurgo è un impegno, però è il lavoro suo, per chi sta seduto lungo sul lettino un po' di ansia viene. Chiaramente. Ci sono due tipi di intervento per disostruire le carotidi, sì. Vogliamo illustrarle rapidamente prima di dare e poi andiamo subito sì. a sentire che cosa succede sulle strade. Il più antico, il più classico è l'endoterectomia della carotide, detta sì. tea carotidea, sì. Che prevede, è invasivo ma non poi così invasivo, nel senso che la carotide, come abbiamo detto, è abbastanza superficiale sul collo e quindi la si reperta facilmente e con una piccola incisione di alcuni centimetri la si sotto evidenzia lungo questi cordoni del collo laterale, sì, quelli che vediamo quando ci arrabbiamo, no? Ecco. Questo è il primo intervento. L'intervento così fatto dopo l'isolamento della carotide prevede la pulitura della placca, quindi si asporta la placca, sì. E poi la si ricostruisce. Il secondo tipo, che è più moderno ovviamente, prevede una tecnica endovascolare ed è la tecnica cosiddetta del palloncino, cioè, sì, quella che si fa per le coronarie, entrate dall'inguine sulla femorale e poi si naviga lungo le arterie fino ad arrivare all'emergenza delle carotidi. Sono naturalmente indicazioni per ciascuno di questi due interventi. Certo, allora diciamo le indicazioni che sono più classiche, forse più ristrette per quanto riguarda la tecnica con palloncino e stent. Stent sono quelle retine che servono a tenere aperta l'arteria. L'arteria. Allora, professore, arriviamo agli stent. Praticamente entrate all'inguine, si naviga. Si arriva fino alla carotide, nel sì. punto dove è stata reperita la placca. In questo caso la placca viene sorpassata con questo catetere che è munito di palloncino e stent, per cui il rigonfiamento del palloncino fa sì che lo stent si adagia contro sì. la carotide. Qui non si esporta la placca, ma la si rimodella per creare un passaggio adeguato. Sì. E quindi non è. Però non è definito, cioè non è risolutivo, posso dire così? Potrebbe essere risolutivo, bisogna solo che ci siano le condizioni esatte, sia per la qualità della placca che per la lunghezza della stenosi, per poter fare in modo che il sia più stabile possibile. Certo, invece con l'altro, quello che è del taglietto sul collo, lei è come immaginando un tubo, lei asporta tutto il calcare e ritorna pulita. Sì. Mentre con l'altro, con questo che risalite navigando, mette un po' il calcare lo mette da parte, no? Sì, si rimodella. Va tutto. Bene, Massimo, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora io volevo esporre un attimo il quesito. Vediamo se è un problemino. Mia suocera 2 anni e mezzo fa circa ha avuto un attacco ischemico transitorio di una certa gravità, con perdita di conoscenza. Poi abbiamo fatto gli esami con un eco Doppler carotideo, gli è stata diagnosticata un'occlusione del 75-80%, al che abbiamo chiesto lumi a vari primari, specialisti, e praticamente in virtù di una patologia già esistente, cioè di una polinefrite cronica, sì. Da parte di mia suocera gli è stato sconsigliato l'intervento, anche se anche se ci è dato sapere che voglio dire, questo tipo di interventi si sono effettuati anche con su soggetti ben più anziani dei 75 anni di mia suocera. Quindi, professore Massimo, ha terminato? Sì. Posso? No, volevo aggiungere sì, rapidamente, perché sennò diventa un po' una cartella clinica. Ci sono anche altri ascoltatori. Si sono poi succeduti altri attacchi ischemici transitori, nonostante la cura sia stata portata avanti con degli anticoagulanti, però non c'è rimedio a questa cosa, tanto più che quasi un anno e mezzo, un anno fa, circa 9 mesi fa, gli è stato diagnosticato l'inizio di Alzheimer. Forse dovuto Quindi anche insomma anche... Massimo, la sua suocera è relativamente giovane, ma è un paziente molto complesso, professore. Forse forse a questo ha controindicato l'intervento da parte dei specialisti che sono stati insomma, consultati. Certamente però si può dire che questo intervento si può fare anche in anestesia locale, quindi superando quelle che possono essere delle controindicazioni anestesiologiche. Quindi il taglio sul collo io non me lo farei mai fare in anestesia locale, perché l'idea di vedere armeggiare sicuramente. Paola da Milano, buongiorno a lei, benvenuta. Grazie, buongiorno. Io ho 48 anni e nel 2005, quindi quando ne avevo 43, ho avuto un attacco ischemico, sì. Non transitorio, nel senso che avevo problemi alla mano e al linguaggio, praticamente sì. Non parlavo più, e poi ho ripreso pian piano la mia vita normale. Sì. Tutti gli esami sono stati negativi dal punto di vista sia degli esami del sangue, il cuore. Paola, fumava lei? Fumavo 5-6 sigarette. Mm. E niente, quindi io alla fine prendo il mio bel antiaggregante, sì. Faccio il mio color Doppler, ma non ho saputo per quale motivo mi è venuta questa cosa, e mi domando se così nel corso degli anni si è studiato qualche cosa d'altro per valutare per quale motivo mi sia venuto. Certo Paola, la ringrazio della telefonata, perché Paola ha ripetuto i sintomi di questo TIA che gli ascoltatori continuano a chiedermi. Dite com'è? Allora, dottoressa Rotavender, rapidamente i sintomi. I sintomi dipendono dalla zona che viene colpita. Ripeto, il TIA è determinato da una chiusura parziale, momentanea e per definizione transitoria di un vaso che porta l'ossigeno al cervello. In alcuni casi può dare disturbi della parola, in alcuni casi disorientamento, non si sa più dove si è, non si riconoscono le persone che si hanno intorno, oppure non si riesce a parlare, si vuole dire una cosa, se ne dice un'altra, e questo diventa persistente per almeno 2 o 3 minuti. In alcuni casi una parte del corpo non risponde ai comandi, di solito la parte o sinistra o destra, mai le due parti insieme. In alcuni casi c'è un deficit di alcuni nervi della faccia, per cui cade la palpebra oppure la bocca si storce. Ma quello che è importante è capire che questi sono sintomi che per definizione poi si risolvono da soli, e questo è proprio il problema, perché il paziente poi li sottovaluta. E infatti è per questo che noi invece vogliamo sottolinearli. Esatto. Ma Paola ci diceva, alla fine non sono venuta a capo di nulla, è possibile? Qualcosa di più sappiamo, perché qualcosa di più abbiamo imparato, perché quando succede una cosa come quella bisogna capire intanto da dove è partito quel microembolo, se c'è stato, oppure perché si è formato. Sappiamo oggi che ci sono alcune persone che costituzionalmente hanno un sangue che tende ad essere un po' più denso del normale, sul quale un carico di fattori di rischio momentaneo può accelerare un processo di coagulazione. Oggi c'è uno screening che si chiama screening per trombofilia, che vuol dire studiare il sistema della coagulazione per capire se è sbilanciato in senso pro-coagulante, cioè se il sangue tende a coagulare troppo. Questa forse è l'unica cosa. Ecco, un esame del sangue. Si chiama, ripetiamo bene il nome, screening per trombofilia, non va fatto in tutti, va fatto solo in casi selezionati, proprio come quello della signora. Andiamo a Gianluca che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Lo fanno in tutti gli ospedali o solo negli ospedali più... È sempre meglio andare negli ospedali più specializzati. Oggi poi è uscita un decreto della conferenza Stato-Regione che mi riempie di gioia, perché ha decretato alla fine di aprile che tutti gli ospedali dovrebbero avere un centro che si occupa di trombosi, e questo mi fa come grande, presidente di grande gioia, sì. Dopo lotte alla lotta per la trombosi. Andiamo da Gianluca dalla provincia di Ravenna, vediamo che cosa ci chiede e se grazie al suo intervento possiamo dare un'ultima indicazione a chi ci sta ascoltando. Gianluca, benvenuto a lei. Grazie, buongiorno. Io sono stato dimesso dall'ospedale 12 giorni fa e ho avuto una dissezione o dissecazione, perché in una cartella c'era scritto dissezione, nell'altra è uguale, della carotide bilaterale. Allora, io non pratico sport estremi, insomma, non faccio una fitta abbastanza regolare, le mie analisi sono in ordine. Lei è iperteso? È iperteso, Gianluca, chiede il professor Odero? Assolutamente no, no. Insomma, la mia pressione è sempre arteriosa. E quindi buona. Anche giovane, Gianluca, vero lei, dalla voce? 10 anni. Quanto? Sì, 46. 46, è giovane. E cosa è capitato a Gianluca? E quale attenzione deve avere, professor Odero? È abbastanza frequente o...? Non è frequente, grazie al cielo, ma sono casi molto impegnativi comunque, perché possono, specialmente se bilaterali, possono veramente mettere a rischio la vita del paziente. È molto importante adesso capire nel proseguo del tempo se questa dissecazione si sta piano piano riconducendo alla norma, cioè le due tuniche arteriose si sono rincollate, perché la dissecazione vuol dire che praticamente si forma un intercapedine nell'ambito della parete stessa dell'arteria, per cui si formano due lumi e in questo caso o c'è un forame di rientro più a valle, oppure c'è la possibilità che si riaccollino le tuniche. Se non fosse, si può prendere in considerazione anche di mettere due stent in modo da tenerla acquattata e quindi di ricondurla nella sua sede normale. Allora, abbiamo chiuso con un caso serio, ma per fortuna abbastanza raro. Auguri a Gianluca, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio naturalmente la dottoressa Lidia Rotavender per essere stata con noi e il professor Attilio Odero, grazie davvero. A appuntamento a domani dopo il GR delle 11, domani venerdì parleremo di calcio e calcetto. A domani!